Ah, devo partire io. Benvenuti. Scusa, non avevo capito. Episodio 55. Volevo far fare tutta Roberta, ma a quanto pare non posso. No, non sono capace. Andrea ha mutato perché ha deciso che non vuole parlare, però Bene. magari può salutare. Eccolo là. E Roberta e Jacopo, questa Ciao è la ragazzi. puntata sappia Salve. numero non lo so. E Roberta ha scelto il regista e noi abbiamo scelto il film. E per cui prego, a lei l'onore. Ma allora, diciamo che arrivati ormai alla 50ª e rotta puntata, mi sembrava più che giusto fare una puntata su Mario Monicelli, che a mio Sottolineiamo, avviso è rotta, puntata è rotta. è rotta, uno dei migliori artisti, registi italiani, e anche se vabbè, migliore è il termine, forse un aggettivo sbagliato, nel senso migliore in base a cosa, comunque è uno dei registi italiani che più ha inciso e ha lasciato un segno nella cinematografia italiana e ha raccontato un po' la storia e gli avvenimenti e l'animo dell'italiano medio e non. E tra tutti i film di Mario Monicelli, forse io non avrei scelto Amici miei, e di primo acchito Purtroppo. avrei detto qualcos'altro, però in effetti rimane ed è una splendida saga. Una splendida commedia, e non mi penso che molti di voi conoscano bene o male di cosa tratti Amici miei. I protagonisti sono quattro, o meglio, cinque uomini di mezza età che affrontano la vita e la loro crisi di mezza età per mezzo di quello che viene chiamato la zingarata. Io penso che la grande protagonista in realtà di Amici miei 1, 2 e 3 sia di fatto la zingarata e cosa. Poi la zingarata diviene, cioè diviene un modo per difendersi dalla bruttezza, se vogliamo, della vita, dalla noia, dallo scorrere del tempo, ritagliandosi uno spazio di evasione che è quello appunto della zingarata. E poi è un inno all'amicizia, insomma, in tutte le sue, sia nel bene che nel male, ecco, diciamo così. Che dire, cioè, ci sarebbero molte cose da dire in realtà. Partendo dai personaggi, sono dei tipi abbastanza che di base ognuno di loro ha un dramma, cioè che sia un dramma sociale, che sia un dramma economico. Sono poi figure estremamente grottesche, insomma, si pensi al conte decaduto, all'architetto Melandri, piuttosto che al chirurgo. Sono persone che guardano la vita, come dire, con. Questo piuttosto che molto milanese e poco italiano. È vero, è vero, è sbagliato. Te non me No, ma l'aspettavo io per è niente. vero, no, è un difetto, cioè una cosa che io uso, anche se so che è sbagliatissimo, ma mi viene. Comunque, dicevo, sono persone che vivono dei piccoli drammi di diversa natura e che però alla fine trovano sempre il modo e il tempo per evadere da quest'ultima tramite l'amicizia e appunto questa zingarata che è un po' il rovesciamento della norma, no? Se vogliamo. E niente, questo è un po' in maniera estremamente stringata quello che penso del film, anzi dei film, perché sono di fatto tre. È una saga, è una quasi, no, una trilogia, no, però è una saga di tre puntate, di tre film. Sì, solo due li ha E fatti Monicelli. è Poi vero. purtroppo c'è il quarto che è imbarazzante e dimentichiamo. Sì, il quarto non l'ho neanche citato perché Quello di non non esiste. esiste. Non esiste. Sì, non esiste. Ma anche il terzo in realtà ha un tono, come dire, è molto più sottotono rispetto ai primi due. Cioè, per me il capolavoro. Ma guarda, tra il primo e il secondo non saprei neanche dire. Forse il secondo a tratti, però per me il primo è un capolavoro in termini di comicità, di trovate, di inventiva, Sì, il primo è. è l'idea poi che è alla base di Amici miei, che è, pensiamo al conte decaduto, a come tratta la moglie, a come tratta la figlia, cioè veramente, cioè, a parte che c'è l'umanità in Amici miei, cioè c'è il. cioè tutto dell'animo umano, c'è l'amore, c'è la noia, c'è il denaro, c'è il disprezzo, e ci sono delle scene surreali, cioè pensiamo alla scena, a quando l'architetto Melandri si innamora di quella che è la moglie del chirurgo, e poi si ritrova paradossalmente a dover prendere, ora non voglio spoilerare, però a dover prendere in blocco, film del 70, di che cazzo è a noi? Sì, dai, non spoilerare. A dover prendere in blocco moglie, no, hai ragione, moglie e poi figli governante, cane e di questo chirurgo che senza alcun problema gli svende tutto il pacchettino per poi presentarsi a casa sua e cominciare a criticare ogni aspetto della nuova vita che sua moglie ha, e il tutto è ancora più grottesco nel momento in cui è lui, cioè ex marito no, perché poi non si sono neanche separati, comunque colui che aveva venduto, diciamo regalato sua moglie tutto il pacchetto al Melandri, a riprendere la moglie nel momento in cui quest'ultima ha una crisi di nervi a tavola e dicendole no, tu donna non ti devi comportare così davanti a quello che è il tuo compagno. Insomma, veramente una scena cioè di una genialità che io più riguardavo quella scena più dicevo, cioè è tra il geniale e il surreale, e mi dicevo boh, ma che cosa vuole dirci poi alla fine Monicelli? Perché io quello che mi chiedo davanti a un film è spesso questo, tanto più se è portato un po' all'assurdo, mi dico ma cosa vuol dirci? Qual è il senso? E sinceramente io ci ho pensato, ma non... cioè non ho capito, nel senso, non che non l'abbia capito, però mi dico perché? Perché una scena così? Che vuol dire che... in fin dei conti anche i rapporti umani sono così intercambiabili, o meglio che alla fine quello che importa è guardare a se stessi e prendersi per il culo, non so, non so se l'avete visto il primo, quello non potrebbe essere male come... non lo so, secondo me allora, l'ho guardato di recente in una frase che dice, che pensa o dice Perozzi, perché è lui che racconta, all'inizio quando parla col figlio, non so se avete presente, lui dice forse sono matto io a prendere la vita con leggerezza, forse è matto lui, forse è una via di mezzo. Secondo me è solo quello, è un po' l'approccio alla vita che non deve essere né troppo, cioè che può essere preso sul ridere o preso seriamente, ma forse protendere verso una via di mezzo è quello che dovremmo fare. Sì, poi c'è anche il discorso di questo mondo fatto di soli uomini e del dire ah, ok, no, dovrei fare un'operazione chirurgica, no, un intervento, prendo e lascio tutto perché oggi andiamo a fare la zingarata. Cioè sì, allora, secondo me il grosso pregio di questo film è che fa ridere. Sì, è vero. Ma sembra una cosa stupida, ma... semplice ma efficace. Nel senso che fa ridere, cioè è un film del 75 che ti fa ridere. E non è così scontato, secondo me. Perché, insomma, se paragoniamo questo al quarto film di Amici miei, che è quella roba che è uscita fatta da Neri Parenti, sì, Amici miei, il ritorno. Vediamo subito che uno fa ridere perché è un bel film, una bella commedia, è fatto bene. Non è... anche le gag, le battute, sono di una comicità fatta come Dio comanda. E che non è legata solo al tempo in cui è stata girata, ma è comicità perché è comicità nella scena. Invece quell'altra è la comicità adesso mi ricordo poco, però hanno preso un po' di gag di Amici miei e poi le hanno rese surreali. Sì, è molto volgare, tra l'altro. È molto volgare, ma è molto tipo cinepanettone. Sì, sì, sì, è il termine giusto. E Amici miei è un po' come Boris. No, però è vero, dai, c'hai i personaggi più che... Sì, le situazioni, non è la scenetta, non è la volgarità, non è... Cioè, lui che caga in un robo di un bambino, non è che fa ridere perché la gag fa ridere perché è descritta in un modo con cui fa ridere. No, ma poi le scene che fanno più ridere non sono, secondo me, le zingarate adesso, cioè perlomeno quando l'ho rivisto io, ma sono più le scene dove loro cercano di non ridere perché stanno magari prendendo per il culo un altro di loro, o magari perché si stanno prendendo per il culo fra di loro, toccandosi un po', diciamo, i bottoni, non so come dirlo, cioè... Sì, sono degli amici, quindi... Cioè... Non lo so, per me, cioè, ho rivisto il film, me lo ricordavo più divertente, però... Secondo me, cioè, è invecchiato comunque bene per altri motivi. Cioè, magari fa meno ridere di prima, ma tante cose non me l'aspettavo di trovarcele. Boh. Sì, e poi ti dico, in realtà, di sottofondo, se voi notate, c'è sempre quella musica così malinconica. Cioè, c'è una profonda malinconia di fondo in Amici miei, che passa attraverso delle scene, dei paesaggi e una musica che è veramente... malinconica. Cioè, anche questo era, ci ho fatto caso in realtà nell'ultima volta che l'ho rivisto, prima pochi giorni fa. Cioè, in realtà il fil rouge è più una malinconia di fondo, no? E che cerca di essere spezzata dalla presa per il culo nei confronti del mondo e di se stessi e di tutti loro. Però sotto c'è una malinconia, cioè. Sì, sì. Ma io comunque sì, l'ho riguardato, forse, vabbè, sicuramente non ho riso come ho riso la prima volta che l'ho visto, però l'ho guardato col sorriso, è un, comunque non è scontato, secondo me, per un film vecchio e per un film che avevo già visto più volte. Avevo già visto sì, poi è vecchio, ma non è pesante all'occhio, non so come dire, non ha quella pesantezza anche nella... Proprio, anche se è un film che dura, no? Dura 2 ore e 50, insomma, roba del genere, però non ti sta, non ti vola, cioè non è un film pesante pur nella sua lunghezza, pur nella sua antiquatezza. Al di là del mio giudizio, che comunque amo di solito i film vecchi, però mi rendo conto che alcuni film vecchi, pur belli, però sono pesanti. Questo no, mantiene quel giusto mix di mestizia di sottofondo, perché c'è, cioè, a me la trasmette onestamente. E leggerezza che vuole mascherare questa mestizia, ma il tutto senza essere pesante all'occhio e in generale. Non so, io per esempio, io all'inizio non avevo detto di guardare Amici miei per fare sta puntata, avevo proposto di guardare L'armata Brancaleone e onestamente non so se avrei riso allo stesso modo, però probabilmente sì. Non lo so. Anche lì è un riso diverso. Io avrei proposto Il Marchese del Grillo, probabilmente, o Parenti Serpenti, se fosse stata a me. Anche... Speriamo che sia femmina, quindi vabbè, ognuno avrebbe posto una cosa diversa. Sì, ognuno le sue. Poi, ecco, anche qua, forse il fil rouge di Monicelli è quello di... a indagare molto bene i rapporti tra gli esseri umani e sempre con un occhio estremamente sornione, anche un po' stronzetto, cioè Monicelli disvela ciò che di marcio, quantomeno di non chiaro, c'è nei rapporti tra gli esseri umani, cioè l'uomo non è non è una creatura positiva, ecco, diciamo così, in fin dei conti ottempera ad una sola cosa, che è se stesso e il proprio benessere, e questo viene fuori anche un po' in Amici miei, però in una chiave diversa, perché poi quel che vince la presa per il culo, per come la vedo io, non è neanche tanto il fare il proprio interesse, perché in fin dei conti anche loro, come quattro amici, però nei vari Amici miei in qualche modo si sfanculano a giro tutti quanti, e sì, sembra che si sfanculino in virtù della zingarata, cioè in virtù della presa per il culo, in virtù del divertimento in ultima istanza. Quindi non darei quella lettura che invece do in, ad esempio, Parenti Serpenti, dove è proprio l'ipocrisia dei rapporti umani e lì a maggior ragione dei rapporti familiari e per quella che è un po' la Weltanschauung di Monicelli, della società borghese capitalista degli anni 70, poi per non parlare di un borghese piccolo piccolo, insomma, Monicelli ha combattuto in ogni sua opera contro la borghesia e la falsità dei rapporti borghesi. E Amici miei, secondo me, è un po' un cameo a parte da questo punto di vista, cioè viene fuori, vengono fuori dei rapporti mantenuti tali solo per convenienza, ma fino a un certo punto, perché davvero è un secondo piano di lettura rispetto al primo, che è quella della presa per il culo, secondo me. Cioè, dell'essere sornioni comunque e di ridere, cioè, nonostante tutto, di ridere nei confronti della vita stessa. Va bene. Ci sta. Quindi sei riuscito a fare la puntata sola? Sì. Vabbè. Metto la prova Weltanschauung, direi che possiamo chiudere qua. No, se posso dire una cosa, Sapio, è che sto film, quando l'ho visto la prima volta, già... mi stava un po' mi stava sul cazzo, ma un po' diciamo mi faceva tristezza il personaggio del Conte Mascetti. Sì, perché sì, cioè, è il più drammatico, però cioè, perché alla fine noi studiavamo tipo proprio alle medie, al liceo, non mi ricordo quando l'ho visto, studiavamo che cioè in ogni pagina di storia c'era almeno un aristocratico, no? C'era almeno un personaggio storico importante che era un aristocratico, cioè perché era importante? Perché si chiamava X. E cioè, guardando quel film, ho detto, cazzo, è vero, cioè, se tu non hai nulla di speciale, solamente il nome, cioè, non lo so, mi sembrava un personaggio tragico per tanti motivi, ma mi sembrava anche emblematico dell'Italia che cambiava, in contrasto con il chirurgo, il pezzo di merda, il chirurgo che poi diventa amico loro, eccetera. Cioè, sono due, come dici tu, forse anche due Italie diverse, cioè da una parte il chirurgo che sembra, è un po', incarna, se vuoi, il borghese capitalista che appunto assume una posizione di tutto rilievo nella società e è essenzialmente una persona spregiudicata e anzi a quel punto diventa anche amici di tutti gli altri. Cioè, questo è un po', secondo me, l'illusione di quando ha girato sto film lui. Cioè, l'illusione, il fatto che sono amici, il fatto, ma anche il fatto, alla fine, come tu potrai ben rappresentare il fatto della scalata sociale, no? Cioè, che tu fai lo scatto da medio, cioè da ceto medio, borghese, diventi il nuovo aristocratico, no? Cioè, lui, alla fine, tutte le cose che comincia a dire a Necchi, no? A chi è che le dice? Al Melandri. No, quell'altro. Ah, sì. L'architetto Melandri. L'architetto. Sono robe da aristocratico. Comunque sì, vabbè, solo questo mi veniva in mente di roba Sapio. Che poi ovviamente Monicelli con gli anni ha cambiato, ha distrutto pure questo. A me mette super tristezza Perozzi. Ah beh, sì, ovviamente pure lui. Però è diversa l'idea, perché un po' mi dà fastidio che... Non è che non prende niente seriamente, ma è patologica questa cosa e mi dà super fastidio. È come se, cioè, un po' sono invidioso, è un po' è come se non distinguesse la realtà, non so come dire, è come se non desse peso alla realtà, e questo sì, mi ha sempre infastidito. Sì, è vero, però è perché anche quello è bello, non è che no, è esattamente l'opposto di quello che sono io, quindi esatto, hai preso tutto, cazzo. È come se per Perozzi non ci fosse differenza tra ciò che lui racconta e ciò che lui vive, cioè si mescola, no? Lui, che poi è anche un giornalista, è come se forse non vivesse le cose in prima persona, non so come dire, è tutto filtrato dal suo racconto e no, e in più è tutto... È tutto grigio, no? Se vuoi. Sì, ma neanche, cioè, niente ha importanza, niente è serio, ma è tutto uno scherzo. Sì. E lui, tra l'altro, appunto, è un giornalista, quindi è l'esatto, cioè, dovrebbe essere l'esatto opposto. E mi ha sempre infastidito, anche quando ero piccolo. Io questo film l'ho visto quando ero piccolo, non mi ricordo, tipo 7 anni, 8 anni. Vabbè, niente. E Jacopo dice... Allora, ho Che cosa mi fa arrabbiare? Posso andare? No, la cosa che ti fa arrabbiare la tengo per un'altra volta. Ho una nuova rubrica, perché non sappiamo che cazzo fare, visto che i cinema sono chiusi, non escono più film. Non possiamo scommettere sui box office, quindi ho trovato una lista che vi invito a non cercare, sia voi tre stronzi, sia chi ci sta ascoltando, dei film con i nomi più strani della storia. Ora, io vi dico un nome, voi senza cercarlo, per favore, ditemi il genere. Ma credevo sia reale o no. Cioè, mi dai un titolo? Quello sarà il prossimo, questo è il primo, perché non ho potuto prepararlo. Va bene. I prossimi cercherò di farmi delle scelte multiple, dove solo uno sarà un film vero e gli altri due saranno, o tre saranno falsi. Questo però per oggi non sono riuscito a prepararlo, scusate. Allora, mi brucio subito qualche nome per i prossimi. Questo è il primo, ragazzi. L'inglese che è salito su una collina ma è sceso da una montagna. 1995. E devo dirti il genere? Il genere. Allora, tenete conto che io sto traducendo dall'inglese, quindi se questi film non sono stati tradotti in italiano, i titoli proprio ufficialmente, non me ne frega un cazzo. Vabbè, tanto saranno tradotti completamente a culo. Esatto, dico. Una 44 Magnum per rispetto alle camere. Esatto. Quindi invito anche Andrea a partecipare, se è presente in chiamata, se non è fuggito. Andrea è presente, ma si sta facendo i cazzi suoi. Si sta grattando. Si starà... si starà... Andrea si stava sballottando il gabbiano. Con... Era lì, esatto, era lì che guardava quel Pattinson. Che... Quindi ragazzi, cominciate. Chi è il primo che vuole provare? È un giallo. Commedia. Aspetta, i generi sono generi tradizionali, tipo... Sono già, potrebbe essere più di un genere. Diciamo, chi si avvicina di più, che ci azzecca il primo nella lista, vince. È drammatico. Allora, ripetetemi, scusate, cosa avete detto? Già, lei ha detto, Roberto ha detto giallo, Andrea ha detto... Commedia. Commedia, e Sal ha detto? Drammatico. Ha vinto Andrea. Era commedia drammatico. Che pezzi di ti giuro che non ho idea di cosa sia. Dalla foto, dalla copertina, non ho assolutamente idea di cosa sia. Potrebbe essere anche fantascientifico, tutto viola. Poi, secondo attacco. No, aspetta, come posso dirlo questo? Attacco dei pomodori assassini. 1978. Horror. Oddio, attacco dei pomodori assassini. Se sarà un horror, però io dico commedia lo stesso. Che so, un thriller? Roberto ce n'è da vicino, però ha vinto Salla. È avventura, commedia, horror. Tutti e tre. Come avventura? Ma chi è che fa il genere? Vabbè. Avventura, vabbè, avventura è usato poco, per fortuna. Stop o mia madre spara? 1992. Questo sarà sempre commedia. Top, mi mangio. Secondo me è drammatico. Oddio. Non ne idea. Beh, spara, Andrea. Cioè, non spara. Thriller. Azione, ok. And, Roberta? Thriller. Ha vinto Andrea, azione. Azione. Cazzo, Andrea, ma c'hai un sesto senso. Allora, ragazzi, questo forse lo conoscete. In italiano si chiama tipo Incubo qualcosa, non mi ricordo. È il seguito di un film molto famoso. So ancora cosa hai fatto la scorsa estate. 1998. Ma che è stato... no, è un thriller veramente, secondo me. Ha detto Salon Horror, ha detto Andrea. Andrea? È sparito. Andrea? Andrea è morto. Ha ricominciato a laggare comunque. Andrea sa cosa ho fatto questo discorso. e ora lo sa ancora, o no? Squalificato. Che cos'è? Squalificato. È un horror. Vabbè. Quindi ha vinto Salon. Quanto è il punteggio? Mi sa 2 Andrea, 2 te e 2 Roberta. No, è una Roberta forse. 1-0, credo. Allora, No, no, Roberta una, mi pare. Una, Roberta. Forse. Non lo so. Vabbè, facciamone una e vediamo cosa succede. Un'altra. L'uomo che amava il gatto che danzava. Questo è drammatico. Drammatico, sì. Drammatico. No, allora, dovete scegliere... Cioè, mica tutti la stessa... Vabbè. Avete perso tutti, fanculo. Era romantico western. Western? L'ho messo nel culo. Allora, aspetta. Dai, allora un altro, finché non c'è un vincitore chiaro. I Kiss incontrano il fantasma del parco. 1978. I Kiss sono la band, proprio, i Kiss. Questo invece è una commedia, è un film d'amore. Con i Kiss? Musical. Con Gin. Musical. Musical, Salla? È un film d'azione. Ha vinto Andrea perché è fantasy horror musical. Fantasy però horror. Prima fantasy horror. Va bene. Niente, dai, finiamo qui con questo tiebreaker. Va bene. Cioè, quindi questa non è una cosa che mi faccia arrabbiare, quindi ci sarà... No, no, ci sarà una cosa che farà più arrabbiare, mi sa. Va bene. Però questa ti ha fatto incazzare pure. Sì. grazie per averci ascoltato e buon primo maggio, che era ieri. No, non è vero, è la prossima settimana. Buona liberazione, che è oggi. A casa in quarantena. E non lo so, cercavo di indovinare tra quante settimane sarebbe uscito questo episodio. E noi ci vediamo settimana prossima, quindi dopo il primo maggio, per questo bellissimo ponte. E mi raccomando, guardate film orrendi. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oh.